Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo di cambiamento, parliamo di innovazione, parliamo di futuro, del nostro futuro, di come affrontare il cambiamento e come affrontarlo soprattutto sotto un profilo del business, di come sta cambiando la realtà economica, la realtà delle imprese di fronte a queste novità che stanno arrivando in maniera molto forte, sotto tanti aspetti, sotto gli aspetti della comunicazione, sotto gli aspetti dell'informatica, dell'automazione, con tutti i problemi che questo comporta. Il libro a cui ci riferiamo questa sera, di cui parliamo questa sera, è Mind the Change, capire il cambiamento per progettare il business del futuro, edito da Guerini Next, ha una prefazione di Federico Faggin ed è scritto da Armando Cirincione, che è con noi questa sera. Buonasera Cirincione. Buonasera. Cirincione è docente di marketing presso l'Università Bocconi e Alberto Mattiello. Buonasera Mattiello. Buonasera. Autore ed esperto di marketing, vive e lavora negli Stati Uniti, lo ringraziamo per il collegamento. C'è anche un terzo autore di questo libro, è Alberto Barban, presidente del settore piccole imprese di Confindustria, vicepresidente di Confindustria. Ma iniziamo guardando appunto perché questo titolo, Attenti al cambiamento, Mind the Change. Alberto Mattiello, perché questo titolo? Il titolo parte dal fatto che abbiamo questa sensazione che sia molto sottovalutato un aspetto fondamentale del cambiamento che sta avvenendo adesso, e nello specifico che non si può più parlare di tanti mercati, ma la verità è che tutte le aziende del mondo, in qualsiasi settore, pensino di operare in questa fase, sono tutte parte del mondo delle tecnologie. Per cui attenti al cambiamento è un concetto che riguarda questo. State attenti che il sistema competitivo in cui siete inserite, il modo in cui fate mercato e soprattutto il modo in cui farete i soldi nei prossimi anni cambiano le regole, e le regole cambiano perché sono le tecnologie a dettarne le funzioni. Quindi non solo cambiano i prodotti, non solo cambia il modo di fare i prodotti, ma cambia anche il sistema, cambia anche, diciamo così, la domanda, l'approccio, il bisogno a cui rispondere. Si creano nuove realtà, nuovi bisogni, non c'è più una risposta ai vecchi modi, ai vecchi bisogni, ma ci sono delle nuove realtà che spiazzano completamente quella che erano i vecchi tipi di produzione, un po' come è avvenuto, per fare un esempio molto facile, con le pellicole fotografiche che non esistono più e sono state superate, sorpassate dalle nuove fotografie digitali. Alberto Mattiello. Sì, corretto. E il problema è questo, cioè c'è una famosa teoria di marketing che parla della miopia del marketing. Tante volte le aziende muoiono perché non si rendono conto che il contesto all'interno del quale stanno operando sta cambiando. E il vero problema è la cosa di cui stava accennando, è capire le aspettative dei mercati. Queste aspettative che stanno emergendo adesso non emergono più all'interno dei mercati singoli, quindi non avvengono più nel mercato dell'automotive, nel mercato del food and beverage e così via, ma avvengono nel mercato della tecnologia. Noi nel libro questo concetto l'abbiamo addirittura chiamato il karma della tecnologia, come se ci fosse una sorta di effetto che nasce soprattutto nel mondo della Silicon Valley e che però poi impatta e va ad invadere tutti gli altri mercati. Quindi il punto chiave è proprio questo, riuscire a capire quali sono queste aspettative che stanno emergendo. E allora chiediamo ad Armando Cirincione, professore di marketing, docente di marketing all'Università Bocconi, che cosa vuol dire che stanno cambiando i mercati, che il marketing del futuro non sarà più quello che una volta, e che in fondo non è solo il fatto che l'e-commerce prenda il posto nel negozio tradizionale, ma c'è qualcosa di più e di diverso. Armando Cirincione. Sì, assolutamente. La diversità sta nella prospettiva che bisogna assumere per comprendere i mercati attuali. Il prodotto digitale oggi ci consente di entrare nel momento dell'utilizzo del prodotto, qualunque prodotto esso sia, grazie al fatto che il prodotto viene arricchito di sensori, viene arricchito di una capacità di connettersi, quindi di trasmettere informazioni, e di un'intelligenza, cioè di un software che ne governa le funzioni e che in qualche modo elabora i dati, adattando le funzioni del prodotto al contesto in cui si trova. Questo fa sì che il momento della vendita non sia il momento terminale in cui l'azienda si disfa del prodotto dandolo all'utilizzatore, sia esso un'altra impresa o sia esso un consumatore, e poi non potendo più tracciare quello che viene fatto con quel prodotto, ma anzi la vendita diventa il momento in cui vengono abilitate tutta una serie di possibilità di relazione con l'utilizzatore che trasferiscono al produttore stesso informazioni che gli consentono di progettare nuovi prodotti, nuove versioni, ma addirittura di arricchire, di incrementare le performance dei prodotti che già sono in circolazione. È la prospettiva che abbiamo chiamato C2B, dall'utilizzatore, dal cliente al business, ossia le informazioni che posso raccogliere sul modo in cui il mio cliente utilizza il mio prodotto migliorano i miei processi, migliorano la progettazione del prodotto, migliorano le performance stesse del prodotto grazie alla possibilità che io ho di aggiornarne il software. È un cambio radicale di prospettiva, è una vera rivoluzione dal punto di vista del marketing, che rappresenta tutto sommato l'esito naturale di Industria 4.0. Ecco, voi parlate proprio di filosofia al primo posto, digital first philosophy. In questo senso, in questa prospettiva, forse non c'è un eccesso nel guardare al digitale come qualcosa che entrerà in tutte le cose che si circondano. In fondo questo non rischia di rendere tutte le cose un po' una merce, se, magari dimenticando quello che spinge la persona a certi consumi, a certi acquisti, a certi atteggiamenti, che in fondo è l'emozione, professor Cirincione. Ma in realtà è un tema su cui c'è molta attenzione ed è giusto che sia così, quello della privacy, quello dell'utilizzo dei nostri dati personali, quella del non volere un'intrusione della tecnologia nella nostra vita, però se ci pensiamo noi già oggi stiamo utilizzando con consapevolezza i motori di ricerca che non fanno altro che tracciare esattamente ciò che noi facciamo e proprio perché tracciano ciò che noi facciamo online noi otteniamo delle risposte dai motori che sono sempre più efficaci, sempre più vicini alle nostre aspettative, la stessa cosa per quanto riguarda i social network, eccetera. Una delle sfide della tecnologia e quindi delle imprese che proporranno prodotti digitali sarà esattamente quella di essere non intrusive, ma di essere in qualche modo un supporto per gli utilizzatori, per in generale, per l'utilizzatore, un valore. E si aprirà tra l'altro una possibilità di dibattito, della possibilità di costruire modelli di business innovativi in cui addirittura l'utilizzatore potrebbe vedere valorizzata l'informazione che trasferisce alle aziende. Perché no? Si tratta di un tema di consapevolezza che noi nel libro affrontiamo, di consapevolezza da parte delle imprese nell'utilizzo dei dati che raccolgono e da parte dell'utilizzatore una consapevolezza del patrimonio che tutto sommato sta trasferendo alle imprese, ma in una prospettiva di co-creazione questo è assolutamente in linea sia con ciò che spinge il cliente a cercare sul mercato una soluzione e ciò che spinge un'azienda a creare delle soluzioni da vendere sul mercato. Ecco, il libro si conclude a una conclusione in cui si parla del fatto che non è una crisi, è l'inizio di una rivoluzione, quindi siamo solo di fronte a delle potenzialità di cambiamento molto elevate, ma io vorrei chiedere ad Alberto Mattiello, anche dal suo osservatorio americano, ma comunque lui è molto spesso anche in Italia, sul fatto di come si sta muovendo l'Italia. Si scrive appunto nel libro, ci sono paesi nel mondo che diventeranno protagonisti, che ci crediate o no, l'Italia potrebbe essere uno di questi. In che prospettiva, Alberto Mattiello? Ci sono diverse risposte da questo punto di vista. Allora, intanto io sento una differenza forte tra l'imprenditore americano e l'imprenditore italiano per un discorso di essere abituati ad un cambiamento. In Italia, secondo me, siamo molto meno flessibili da questo punto di vista. Un americano a 50 anni ha già cambiato 8 lavori e metà di questi probabilmente erano aziende che lui ha avviato, mentre in Italia questo tipo di flessibilità non fa parte della nostra cultura. Quindi questo è un primo grosso cambiamento, questo è un primo passo forte che l'Italia deve fare e che deve sicuramente cambiare. Il secondo concetto importante è un concetto di mindset. Ci sono e c'è bisogno di andare ad abbattere tutta una serie di chiamiamole così, impostazioni più tradizionali di visione del business, e in questa visione più digitale, di trasformazione digitale del business, questo è uno dei punti centrali. Detto questo, l'Italia sa produrre bene, sa produrre, probabilmente è uno dei paesi al mondo che sa produrre meglio. Quello che manca è solo fare nei prossimi 10 anni, ed è per questo che noi la chiamiamo un inizio di una rivoluzione, nei prossimi 10 anni devi imparare a capire che nel momento in cui può adottare delle logiche digital first e quindi cominciare a ragionare prima in termini digitali e poi in termini di prodotto, l'Italia può essere sicuramente, indubbiamente, uno dei protagonisti di questa rivoluzione. E allora faccio più o meno la stessa domanda al professor Armando Cirincione. Il libro si basa anche a tutta la parte introduttiva dedicata all'unlearn, cioè al fatto di superare e quasi di dimenticare i modelli del passato, reinterpretare completamente lo scenario di evoluzione. L'Italia invece è molto legata alle vecchie prassi, soprattutto forse nella scuola, nell'università, ai vecchi programmi. C'è questa capacità di chiudere con il passato e di guardare in avanti, professor Cirincione? Sì, io sono ottimista. L'idea di suddividere il libro in due parti nasce da una frase illuminante di un futurista americano, che è Alvin Toffler, che dice: gli analfabeti del XXI secolo non saranno quelli che non sapranno né leggere né scrivere, ma saranno quelli che non sapranno disimparare per imparare modelli nuovi, modelli mentali nuovi. Quindi un modo di affrontare la novità che in qualche modo riesca a interpretarla, perché novità è ciò che sostanzialmente non risponde a ciò che noi già conosciamo. E lo stesso Einstein diceva: non possiamo risolvere i nostri problemi con lo stesso pensiero che abbiamo usato quando li abbiamo creati. E questo è assolutamente vero. Quindi quello che occorre fare nelle università e ancora prima nelle scuole superiori è soprattutto insegnare a disimparare, che vuol dire insegnare ad avere un pensiero critico, insegnare a essere sfidanti rispetto a ciò che è consolidato, rispetto a ciò che si ritiene scontato, in qualche modo domandarsi se non esistono delle prospettive diverse che possano essere più proficue e più efficaci nel darci una chiave di interpretazione del cambiamento. Se comprendiamo il cambiamento, lo sappiamo anche in qualche modo usare a nostro vantaggio e lo sappiamo in qualche modo dirigere. Il cambiamento è pericoloso, i venti sono ostili quando noi non abbiamo una rotta da seguire. Quando abbiamo una rotta da seguire, ciascun vento invece può essere trasformato in un buon vento. Certo, come noi poi mettiamo la vela. In questa prospettiva possiamo anche pensare che possa essere un vantaggio arrivare un po' in ritardo. In fondo arrivare in ritardo ci apre più spazi, ci tiene conto degli errori degli altri e su quello possiamo costruire su un foglio bianco, come c'è bisogno di fare tenendo conto delle grandi potenzialità delle tecnologie, grandi potenzialità che si possono ritrovare tutte in questo libro, Mind the Change, lo ricordo. Io ringrazio Alberto Mattiello e Armando Cirincione, che sono gli autori di questo libro, insieme ad Alberto Barband, Mind the Change, capire il cambiamento per progettare il business del futuro, prefazione di Federico Faggini, edito da Guerini Next. Sono 236 pagine per 28 euro. Grazie a Mattiello e Cirincione di essere stati con noi questa sera, grazie anche a Valeria Bernardi in regia, a Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagine per domenica prossima.